In questo momento devo dire che i fiumi italiani sono tutti un po' in sofferenza e quello che mi sento di dire è che dovremmo fare molto e fare di tutto quanto ci è possibile per riportare i fiumi allo splendore che avevano un tempo. Questa sofferenza delle acque l'abbiamo, se vogliamo, ereditata o l'abbiamo costruita noi, e per cui dovremmo lavorare a questo punto per riportare i pesci nelle condizioni di poter essere di poter tornare sulle tavole. In questo momento credo che possiamo dire tranquillamente che i pesci non possono andare sulla tavola. I ristoranti importanti o i ristoranti che sono diventati importanti, molti di questi sono sul fiume. L'Auberge de Lille, i Loges in Francia, o Paul Bocuse, o moltissimi ristoranti. Waterside Inn a Londra. Esatto, certo. E tutti i ristoranti che nascevano sul fiume, perché il fiume è fonte di vita, è fonte di ricchezza. Ecco, noi dovremmo ricostruire questo messaggio. La cucina intorno al fiume è una cucina ricca, una cucina che permette di variare nella cultura gastronomica che va dal pesce alle verdure, alla frutta. Questo, la Campania è ricca di tutte queste cose, insomma. Quindi tu dici si può fare una grande cucina perché la materia prima, laddove così l'ambiente è stato mantenuto, è in grado ancora di offrire molto, parecchio devo dire. E volevo ricordare, Antonio, hai parlato di ristoranti sul fiume, volevo ricordare un personaggio che ci ha lasciato qualche anno fa, che era il bersagliere di Goito, che era proprio sul fiume, e mi dicono che sta per riaprire, quindi saremo tutti molto felici di rivedere quel ristorante tornare così ad aprire i battenti. Volevo chiederti un'altra cosa, cioè lì nella vostra zona diciamo che una delle caratteristiche peculiari è sono i tortelli di zucca, ma io so che la zona di Canneto sull'Oglio, dove sei tu, ha delle peculiarità diverse dai territori vicini da Mantova su questo prodotto. Sì, certamente. Bisogna dire che ogni nonna e ogni mamma è sicura di fare i migliori tortelli del mondo. È chiaro che quando una ragazza si sposa e ha una buona attitudine alla cucina, porta con sé le tradizioni, porta con sé gli usi, i costumi e le abitudini alimentari. E spostandosi da un territorio all'altro vediamo che ci sono dei cambiamenti nella composizione della ricetta dei tortelli di zucca. C'è una zona non distante da noi dove qualcuno, arrivando da altri territori, ha voluto inserire il gusto di menta, non essendoci la menta poi d'inverno, quando a Natale si vanno i tortelli, e aveva inserito una mentina pestata. In altre zone si aumentano, più si è vicino a Cremona, più aumenta l'amaretto, più si avvicina a Mantova o Ferrara addirittura, l'amaretto viene tolto in quantità proporzionale. Credo che i tortelli di zucca rappresentano nella pianura dell'Oglio e nella zona che va da Crema a Ferrara, con spostamenti verso sud, quindi verso Parma o verso nord, verso Brescia, una variazione straordinaria di come, cambiando la ricetta, si possa cercare un equilibrio che dà a questo piatto un'unicità e una peculiarità straordinaria. Un'ultima domanda: a un viaggiatore che vuole intraprendere questo viaggio, gli dai un luogo da andare a visitare? Ma io direi, come detto prima il dottor Brambilla, il direttore del parco, credo che se uno vuole intraprendere un viaggio lungo il Po, può in ogni zona, in ogni angolo, trovare degli aspetti straordinari. In alcuni punti, anzi direi quasi completamente, si può fare un bel viaggio con una canoa o con una barca a remi, e questo fa vedere un mondo unico, un mondo che dobbiamo salvaguardare, un mondo che in alcuni angoli dobbiamo recuperare. E questo credo che è la sfida per i prossimi anni, quello di recuperare la bellezza del fiume là dove l'abbiamo persa, e soprattutto recuperare, questo vale per l'Oglio e per tutti i fiumi italiani, recuperare l'acqua che permetta certo, e di vivere e soprattutto di essere mangiati. Bene, grazie. Grazie a Antonio Santini, grazie del pescatore di Cannette sull'Oglio. Il gastronauta. Continuiamo a viaggiare nel territorio dell'Oglio, questo fiume di cui abbiamo già sentito esiste una riserva naturale, esistono anche dei luoghi molto interessanti da andare a visitare, in particolar modo chi è appassionato di uccelli, di bird watching, quindi sicuramente, e ci sono appunto grandi ristoranti, abbiamo già cominciato a sentire, ma ci sono anche dei prodotti perché altrimenti i ristoranti non sarebbero grandi, perché sicuramente la qualità di un ristorante dipende sempre dalla qualità degli ingredienti usati. E allora andiamo a parlare con un produttore di formaggi, Luca Grasselli, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconta un po' lei cosa produce di formaggi, in particolare credo formaggi ottenuti da latte vaccino, se non erro. Esatto, sì, abbiamo 25 brune alpine in lattazione e lavoriamo circa 2 quintali di latte alla giornata, e lavorandone così poco, essendo un'azienda, una realtà piccola, cerchiamo di differenziare il prodotto. Ecco, quali sono i formaggi così che servite ai tanti trattori bravissimi della sua zona? Abbiamo formaggi freschi, facciamo un formaggio simile alla lavorazione della crescenza, un primo sale, poi facciamo le paste filate, facciamo le mozzarelle mozzate a mano, la scamorza, il provolone che è tipico di questa zona. E poi facciamo anche formaggi più stagionati, diciamo, cerchiamo di differenziare, facciamo anche un latteria stagionato 2 anni. Circa. Ecco, il provolone quanto lo stagionate? Quanto tempo? Può andare da 3-4 mesi fino anche a 6-7 mesi. Ecco. Ma lei, mi dicono, produce anche mozzarelle? Esatto, facciamo le mozzarelle mozzate a mano. Addirittura, quindi la vera mozzarella, insomma. Esatto. Ah, diciamo che è fior di latte, perché sì, mozzarella di bufala, certo. Però... E proprio la mozziamo a mano, la lavoriamo nella tina di legno come si faceva un tempo, come si fa al sud, e la mozziamo a mano, sì, un lavoro. Quindi voi vendete anche direttamente al viaggiatore, magari a un gastronauta che passa in zona può venire ad acquistare direttamente da voi? Esatto, cerchiamo di anche il nostro prodotto di venderlo direttamente per mantenere chiaramente un prezzo basso, e comunque chi passa in cascina può entrare e servirsi del formaggio, diciamo. Ho capito. Senta, i pascoli, ci sono tanti pascoli in zona? Tanti no, noi abbastanza, noi cerchiamo appunto di mantenere il pascolo, la bruna alpina è una vacca da pascolo, noi facciamo un pascolo in pianura, però cercando di mantenere le caratteristiche di un latte, diciamo, di altura, e quindi a livello proteico e di grassi è molto alto, quindi il formaggio risulta anche più gustoso. Bene, abbiamo scoperto in questa zona addirittura il fior di latte mozzato a mano, quindi cari gastronauti in viaggio, questa è veramente una grande chicca. La ringrazio, Grasselli. Grazie mille, grazie. Buon lavoro, continuiamo questo viaggio. Ora andiamo in una piazza bellissima, devo dire che io sono affascinato da questa piazza a Isola Dovarese, perché veramente uno arrivando capisce che patrimonio ha questo paese, magari che non è coltivato, non è ben tenuto, va bene. Quindi Isola Dovarese vale solo un viaggio, secondo me, per andare a vedere questa piazza, ma poi per sedersi, magari quando il tempo è buono, come in questo periodo, al caffè La Crepa, perché si può mangiare fuori e godere sia del paesaggio attorno, della vista attorno, della bella vista di questa piazza, ma anche del cibo del caffè La Crepa dei fratelli Malinverno. Buongiorno Fausto Malinverno. Buongiorno. Allora Fausto, ma sì, la sua zona, lei da tanti anni voi fate così dei menù che sono molto legati alla tradizione, alla storia, anche se avete così, come posso dire, dei piatti anche abbastanza creativi e uno spirito che a me ricorda molto, sì, quello di Peppino Cantarelli nel vostro lavoro. Ci vuole raccontare così come nel tempo, ad esempio qualche piatto che tanti anni fa era un vostro cavallo di battaglia e del territorio poi piano piano è cambiato? C'è qualche piatto in particolare? Ma dunque, intanto noi siamo in ballo, i miei genitori, da 60 anni, quest'anno il 60esimo dovrebbe essere, perché hanno iniziato il 1° settembre del 1951 su questa piazza, e mio padre faceva il pescatore, cioè faceva anche il pescatore, era un abile pescatore, per cui da sempre noi proponiamo i piatti di pesce di acqua dolce ovviamente. Mia madre era naturale che i pesci di acqua dolce li lavorava rapidamente e via. Si sono, e chiaramente un po' i piatti si sono evoluti, ma non di tanto poi. Senta Fausto, voglio chiedere una cosa sul pesce, appunto, sì. Dal pesce di suo padre a quello di oggi. Beh, con l'inquinamento dei fiumi in realtà è sempre più difficile trovare pesce di acqua dolce, oppure si trova ancora nella vostra zona? No, diciamo che adesso è stata ricreata la domanda, ecco, c'è stato un po', noi abbiamo visto che negli anni 80-90 magari erano andati un po' in disuso, proprio anche grazie, non grazie, ma per colpa dell'inquinamento o per delle paure e via, per cui non c'erano neanche se non c'era domanda, non c'era neanche chi li proponeva, in poche parole nessuno più andava a pescare e poi le pescherie stesse non si attrezzavano. Però devo dire che invece di adesso stiamo vivendo almeno da più di 10 anni che è ritornata la domanda, cioè anche grazie delle iniziative che sono state proposte, e tanti nostri giovani hanno scoperto o riscoperto i pesci nostri, per dire il luccio, ma lo storione. Poi dopo fortunatamente noi qua nella nostra area o poco distante da noi abbiamo uno degli allevamenti di storione più prestigiosi, più duraturi nel tempo e che danno un pesce garantito. E poi devo dire che anche la provincia o le autorità competenti stanno continuamente immettendo e facendo del ripopolamento nei nostri fiumi. Per esempio adesso anche il Parco dell'Olio ha gestito proprio un ripopolamento dello storione. Ecco, infatti noi stessi abbiamo, come dire, facciamo una moratoria di non servire il pescato almeno per 5 anni per cercare di ripopolare il fiume. Ecco, così i rumori dei gastronauti, dei gastronomi mi dicono che da lei ora si mangia una pesca molto particolare al forno. Beh, quello è un altro, questo è un dessert, fa riferimento. Sì. Sì, quello proprio era uno dei piatti, cioè uno dei dolci che io ricordo da bambino, che mia madre era la cosa che faceva spesso, era la pesca con la cioccolata e l'amaretto, che veniva messa al forno così, e era proprio il dolce dell'estate, ecco, che noi adesso abbiamo riproposto e riproponiamo volentieri, cambiando di poco, cioè per renderlo molto più pratico, ma solo per quello. Poi devo ammettere che c'è tutta la consistenza e la fragranza che aveva allora, ecco, io lo ricordo così, anche se da bambini si hanno dei ricordi particolari, è vero? Certo, i ricordi, la memoria gastronomica, sì, memoria è quella più importante. Certo. Senta, Fausto, ci dia un altro piatto che fa in questo periodo, un piatto molto particolare. Per esempio facciamo il risotto con la tinca e i piselli, che è un altro delle cose, ecco, il fritto misto di acqua dolce, per esempio noi siamo abituati alla frittura, alla paranza di mare, che non nulla toglie, voglio dire, però insomma il ricordo delle rane, dei pesciolini piccoli, dei gamberetti e così, questo è una delle cose che spesso stupisce, perché magari ecco, sono poco abituati ed è molto interessante. E poi questi tagliolini che facciamo con il persico, anche questi tagliolini, intanto si parte da una pasta nostra e via, sono tutti dei piatti abbastanza semplici anche da fare e che veramente sono il nostro territorio, perché le verdure sono queste qua, ovviamente, e poi anche i pesci. E qua noi adesso abbiamo la fortuna che, dicevo, abbiamo creato la domanda e c'è una buona offerta di pescherie qua nella zona del Lago di Garda o anche prima, che stanno proponendo, veramente ricercando e trovando i pesci di acqua dolce più pregiati. Mi riferisco al coragone, oltre che le tinche, il pesce gatto, le anguille naturalmente. Bene, io voglio ricordare che al Caffè La Crepa è anche enoteca e gelateria, quindi chi volesse anche così scegliere dei vini molto particolari e con una grande cernita, appunto, dai Fratelli Malinverno. Consiglio che siano dei vini naturali. Sì, vini adesso naturali, benissimo. La sfida che abbiamo intrapreso da questi ultimi anni è proprio quella, cioè, oltre che li abbiamo già provati tutti, adesso vogliamo anche garantire, non per fare del salutismo, buon mercato, quello ma che servite, certo, cercando di controllare che tipo di vini sono. Bene, grazie a Fausto Malinverno del Caffè La Crepa. Ora finiamo però questo pranzo alla crepa mangiando degli isolini. Cosa sono gli isolini? Ce lo facciamo spiegare da Dario Castellucchio della Bottega del Biscotto. Buongiorno Dario. Buongiorno, buongiorno. Ci spiega cosa sono gli isolini? Dunque, gli isolini sono biscotti nati in pratica più di 30 anni fa, sono biscotti artigianali al 100%, sono in pratica una frolla di nocciole glassati con una glassa di zucchero e albume, con strisce di marmellata d'albicocche, vengono praticamente tagliati a mano, messi in rete, è proprio un lavoro artigianale al 100%, ecco. Bene, in questi, e nella Bottega del Biscotto, oltre a questi, ci sono altri tipi di biscotto, vero? Sì. Sono tutti biscotti in parte, biscotti della tradizione nostra cremonese, come ad esempio i bombonini, che sono biscotti di frolla, sono biscotti al burro, appunto nella tradizione cremonese. Abbiamo gli ossetti, che sono biscotti di mandorle, albume e vino bianco, sono biscotti senza grassi, senza burri, diciamo, la particolarità di essere molto friabile, ecco. Bene, grazie a Dario Castellucchio, quindi la Bottega del Biscotto sempre a Isola d'Ovarese. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio lungo il fiume Oglio. Come abbiamo sentito, abbiamo scoperto già tante chicche oltre il valore naturalistico di questo percorso. Bene, ora abbiamo parlato di fiume continuamente, appunto l'Oglio, ma facciamo una tappa particolare a Canneto sull'Oglio e andiamo al Museo del Fiume. Devo dire che io questo museo, l'ho detto prima, l'ho visitato tantissimi anni fa e sono rimasto molto, ma molto colpito. Allora facciamo raccontare qualcosa su questo museo dal direttore. Buongiorno a Fausto Scalvini. Buongiorno. Ci racconta qualcosa di questo museo? Cosa trova il viaggiatore che viene da voi a visitare appunto il museo? Dunque, l'idea del museo, che è nata più di 30 anni fa, legata proprio al fiume, il fiume inteso proprio come genius loci, ecco, del territorio, cioè l'ispiratore delle progettualità, delle scelte di vita proprio degli abitanti che abitano lungo le sue sponde. E da qui che è nato poi anche l'idea di un ecomuseo. Quindi il museo è in pratica un centro di documentazione dove sono dove è raccolta in pratica ed esposta o raccontata la storia appunto del territorio, quindi non solo la storia del fiume, ma la storia del fiume come l'acqua in particolare, come ha condizionato, diciamo, positivamente nel bene e nel male un po' la storia dei, non solo dei canetesi, ma di tutti i paesi appunto dell'ecomuseo, cioè i paesi rivieraschi. Ecco, ci sono 14 percorsi tematici all'interno, su un percorso che è di circa 1500 metri quadrati di esposizione, ecco, per dare un'idea delle dimensioni, con più di 3000 metri cubi di vetrine, ecco, per dire, dove appunto viene narrata tutta l'aspetto, diciamo, naturalistico, storico, archeologico, antropologico, gli aspetti anche etnografici, le tradizioni, i riti, i miti. Così, quindi gli appassionati, diciamo che gli appassionati del fiume trovano pane per i loro denti, insomma, vorrei dire così. Lei che pensa? Sì, ci sono tutte queste sfaccettature. Bellissimo. Che sono appunto legate al nostro fiume. Senta, insomma, Scalvini, c'è un oggetto in particolare molto caratterizzante appunto del fiume che lei consiglia così di soffermarsi? Ma qui ce ne sono tantissimi di oggetti, insomma, ecco, dipende sempre dal taglio che vogliamo seguire. Se guardiamo l'aspetto naturalistico, vabbè, qui c'è una tradizione plurisecolare, per esempio, della coltivazione delle piante. Ci sono più di 2000 varietà di piante, un vero giardino botanico lungo le sponde del fiume Oglio, quindi le aree paludose sono diventate il terreno ideale per la coltivazione appunto di tutte queste piante. Se seguiamo l'aspetto diciamo archeologico, anche qui il fiume Oglio è diventata la culla, vorrei dire, più antica degli insediamenti abitativi di tutta la Lombardia. Ecco, vedi, non so, la zona dei Lagazzi qui vicino a Piadena, va bene, è diventata patrimonio dell'umanità appunto perché testimonia appunto questa antichissima presenza appunto lungo il fiume. Se seguiamo poi l'aspetto, non so, etnografico, anche qui troviamo numerose tradizioni, ne cito solo qualcuna, vedi la benedizione del fiume a Castelfranco Oglio il 24 agosto, oltre ai numerosi oggetti che testimoniano appunto questi legami, va bene, con il territorio. Bene, ci ha dato già veramente tanto da vedere, tanto da visitare. Io la ringrazio, Fausto Scalvini, Ecomuseo, Valli dell'Oglio e Chiese, quindi mi raccomando, chi passa in quella zona, in quel territorio, lo vada a vedere perché veramente ne vale la pena. Continuiamo questo viaggio sempre nel territorio dell'Oglio e ora andiamo alla Chiusa di Asola, una ristorante molto particolare di Umberto Ravenoldi. Ebbene, io chiedo subito a Umberto, perché la scelta del pesce di mare in una zona così ricca di pesce di fiume? Buongiorno, la scelta del pesce di mare è stata solo una questione di passione, cioè una passione per questo tipo di cucina, semplicemente. Siamo partiti facendo del pesce d'acqua dolce, poi non mi dava questa soddisfazione perché non sono mai stato legato alle ricette, alle cucine tradizionali, queste cose, quindi mi trovavo un pochino anche così perso, ecco. Allora ho preferito scegliere il pesce di mare che mi dava uno spettro più ampio. Beh, diciamo che in una zona molto, così come posso dire, molto tradizionale, cioè il suo locale si pone in maniera completamente diversa. Ma c'è un piatto della zona tradizionale che lei invece ama e vuole riproporre? Beh, io piatti a base di pesce di acqua dolce adesso non ne faccio. Però, dicevo ad esempio delle paste. Le paste, allora, sicuramente. Sì, faccio i tortelli di zucca, li faccio con grande passione, quelli sempre, li farò sempre, però li faccio, diciamo, da fine settembre, quando cominciano le zucche, a Pasqua, ecco, poi li tolgo dalla carta perché la gente, insomma, i miei clienti sono più abituati magari d'estate a mangiare altre cose. Ecco. Però li ripropongo sempre. Una cosa sorprendente. Poi, prego, prego, mi dica. No, poi volevo dire, io avevo creato un piatto che era favoloso con il pesce d'acqua dolce, che era un'anguilla, solo che anche lì non l'ho più fatta perché facevo fatica a reperire le anguille, insomma, in un certo modo, e poi è successo che io avevo aperto con un socio, ci siamo divisi e quindi ho abbandonato un po' tutto, ma questo piatto vorrei riproporlo. Magari quest'inverno partirò sicuramente con questo piatto perché secondo me ne valeva la pena. Bene, invece un piatto veramente interessante è la carbonara di mare, riproposta appunto. La carbonara di bottarga di tonno, fatta con la bottarga. Io voglio ricordare un affumicato, un gusto affumicato. Che si usa anche nella carbonara, come qualcuno fa con il guanciale affumicato. Io invece metto un formaggio che si chiama Gran Cacio di Morolo, che è fatto a Morolo in provincia di Frosinone da un amico, quindi questo nell'impasto dell'uovo e così, bottarga, e poi alla fine mettiamo una tartare di tonno sopra cruda. Bene, abbiamo, diciamo, la trattoria alla Chiusa, appunto chi va in questo viaggio e vuole mangiare dei piatti di pesce di mare davvero interessanti come questo, sicuramente è l'indirizzo giusto, Umberto Ravenoldi, trattoria alla Chiusa di Asola. Continuiamo appunto il viaggio, ma diciamo anche che si può trovare anche vino in questo territorio, e andiamo nella zona del Via Danese, e andiamo da Mimma Vignoli, il Lambrusco Mantonano, perché molti pensano che il Lambrusco sia solo Reggio Emilia e Modena, in realtà invece c'è un ottimo Lambrusco anche nella zona di Mantova. Buongiorno Vignoli. Buongiorno. Allora, ci parli un po' del Lambrusco Mantovano, cos'ha di diverso secondo lei dagli altri Lambruschi? Beh, io vi parlerò del Lambrusco Via Danese. Sì, bene. Il Lambrusco Via Danese è un prodotto di una sottozona dell'Ambrusco Mantovano, quindi pochi comuni che utilizzano un vitigno antico che è l'Ambrusco Viadanese, e con questo vitigno, con queste uve, noi produciamo questo vino che poi, come dici tu, esatta, è l'Ambrusco Mantovano Viadanese Sabbionetano. Addirittura è lungo da ricordare, però questo è molto lungo. È lungo da ricordare, ma identifica comunque un territorio ed è importante comunque legare questo vitigno al nostro ambiente, al nostro territorio, ai prodotti del nostro territorio. Beh, devo dire che giustissimo quello che lei sta dicendo, anche perché appunto di Lambruschi ce ne sono e bisogna caratterizzarlo in questa maniera. Ma dal punto di vista, se vogliamo, gustativo, ha delle peculiarità questa tipologia di Lambrusco? Sì, è un Lambrusco abbastanza scuro, quindi un rubino intenso, è molto corposo. Poi noi per scelta in azienda non filtriamo il vino, ma facciamo solo i travasi. Vendemmiamo quando l'uva è veramente matura, quando è pronta, vendemmiamo a mano e seguiamo le tradizioni di vinificazione, quindi seguendo anche le lune nei travasi e nelle lavorazioni, però con tecniche moderne, quindi abbiamo le botti in acciaio 316, le pompe che non sbattono, come si dice, il vino, per cui insomma cerchiamo di tenere la tradizione ma con tecnologie nuove. Ecco, e soprattutto è un vino questo. Dica. No, volevo chiederle se lei si ritiene, appunto, rientra in quella, diciamo, categoria, chiamiamola così, anche se è molto impreciso questo termine, dei vini naturali. Ma Dio, io vini naturali, questo discorso di vini naturali lo capisco poco. Noi facciamo agricoltura biologica. Ah, ecco. Quindi l'importante è, facendo agricoltura biologica, dare soprattutto una qualità, ma poi anche una salubrità del prodotto. Quindi vini naturali è troppo generico e secondo me crea confusione, mentre un discorso di agricoltura biologica certificata, noi siamo certificati CEA, quindi sottoposto a dei controlli, sottoposto a dei registri, e controlli anche a sorpresa, perché CEA fa anche controlli a sorpresa. Certo. Diamo una garanzia diversa del prodotto. Bene, io ringrazio Mimma Vignoli, perché questa è un'altra grande chicca, così credo non conosciutissima, e quindi sicuramente chi si trova in zona, prego, perché questo di vino sicuramente è da assaggiare, lo ripeto, Mimma Vignoli, Corte Pagliare Verdieri, Commessaggio, provincia di Mantova, quindi credo che valga veramente un assaggio. Grazie, e ora continuiamo questo viaggio e riparliamo di formaggi. Abbiamo parlato prima di formaggi vaccini, ora parleremo di formaggi di capra. Buongiorno a Davide Trombetta. Sì, buongiorno. Dell'azienda agricola Trombetta a Ostiano, provincia di Cremona. Che quanti tipologie di prodotto lei produce? Quanti formaggi diversi produce di capra? Allora, io produco la categoria, vabbè, sono due, i freschi e i stagionati. E i freschi intendo per caprini, ricotte, primo sale e anche yogurt. Mentre quelli stagionati sono caciotte, che variano da un periodo di stagionatura da un mese fino a 7-8 mesi, dopo dipende anche dalla dimensione del formaggio, e gli erborinati, che sono dei formaggi che assomigliano al gorgonzola. Quindi fa l'erborinato di capra, che è la mia passione. Sì, faccio l'erborinato di capra. Sì. Sì, mi piace moltissimo, credo che stia prendendo anche piede. E, senta, Trombetta, si può venire a comprare direttamente da voi? Sì. Sì, a Ostiano, quindi nel vostro caseificio si può comprare direttamente. Sì, ho il piccolo spazio dove si può comprare direttamente. Bene, quindi abbiamo trovato anche i formaggi di capra in questo lungo viaggio ormai che volge alla fine, da Davide Trombetta a Ostiano in provincia di Cremona. Il gastronauta. Stiamo viaggiando, cari gastronauti, come avete sentito, nel territorio di questo fiume l'Oglio, e abbiamo già scoperto veramente tantissime chicche, tantissimi prodotti magari poco conosciuti, alcuni locali anche questi non conosciutissimi. Bene, ora continuiamo questo viaggio, ora andiamo in un altro ristorante a Cicognolo in provincia di Cremona. Vorrei ricordare che molti ristoranti di cui stiamo parlando, a cominciare da Isola Dovarese, Caffè La Crepa, questo ristorante che si chiama L'Umbrellere, poi spiegheremo perché, e poi ancora la Trattoria dell'Alba a Vo di Piadena, l'anno scorso sono stati premiati dalla mia guida dei ristoranti del Sole 24 Ore come la provincia dove si mangia meglio. Io credo che sia una provincia veramente straordinaria che ha mantenuto delle tradizioni, e molti di questi ristoranti da trattoria sono diventati ristoranti ma hanno mantenuto ancora questo stile veramente bello, questo stile così di ospitalità importante. Allora, Diego Luccini, buongiorno, del ristorante L'Ombrellere. Se non erro, il fondatore anni fa faceva l'ombrellaio, per cui è nato il nome, è così, vero? Sì, era il nonno. Il nonno che nel immediato dopoguerra ha praticamente preso questa trattoria, e la nonna gestiva la trattoria e lui girava con un carretto una volta che vendeva casalinghi e riparava ombrelli. Quindi nelle cascine qua attorno era conosciuta come l'osteria dell'Ombrellere. E da qui il nome è rimasto. Insomma, bellissimo, non dovete toglierlo perché è troppo bello questo. Senta, Diego, volevo chiederle questo. Appunto, lei ha parlato il nonno e la nonna. Avete mantenuto ancora qualcosa di quei prodotti o di quei piatti? Beh, diciamo che la nostra cucina si fonda un po' sulla tradizione, quindi sui piatti del territorio, insomma, a partire dai salumi che la fanno da padrone negli antipasti, come il salame nostrano, le pancette, e per poi passare i primi piatti, i marubini, i tortelli di zucca, le paste ripiene che facciamo in casa, nei secondi ci sono dei piatti a base di animali da cortile, come non so, l'oca, l'anatra, la faraona, i conigli, insomma, e poi ovviamente anche il maiale che d'inverno con vari piatti, col cotechino, con le costine con la salsiccia e le verze, che è una versione un po' light della cassola milanese, insomma, che serviamo sempre con polenta, cioè facciamo la coppa stufata al Barbera. Insomma, piatti comunque che hanno tradizione nel territorio. Facciamo lo stracotto d'asino con la polenta, con uno spezzatino di asino molto, molto appetitoso. Insomma, senta, Diego, non è mai venuto voglia così di cambiare, cioè di innovare molto? Ma no, noi ovviamente cerchiamo anche un po' di adeguarci un po' al mercato, perché comunque i gusti si sono anche un po' più raffinati, però diciamo che le materie prime sono sempre le stesse, che vengono comunque mantenute nella loro integrità. I piatti che proponiamo cerchiamo di mantenere, ecco, questi gusti della tradizione che fino adesso comunque penso siano stati apprezzati, ecco. Senta, anche le mostarde, so che producete in casa, sì, mostarde e conserve. Sì, esatto, abbiamo un piccolo laboratorio di mostarde artigianali, ne produciamo circa 14 tipi, fra cui monoreferenze come fichi, cipolle rosse di Tropea, le mele e pere, facciamo le more, facciamo insomma parecchi tipi di mostarde, alcune conserve di verdure come delle giardiniere, delle peperonate, delle zucchine all'agrodolce, insomma tutte verdure comunque qua del territorio che vengono lavorate un po' come si faceva una volta, insomma, ecco, quindi scottate con un goccio di acqua, aceto e zucchero. Bene. E poi vengono messe pastorizzate in vaso, insomma, ecco. Cerchiamo di mantenere, ecco, una certa croccantezza nella verdura senza esagerare nelle cotture. Certo. per non distruggere, insomma, la struttura della verdura. Bene, grazie a Diego Luccini, ristorante L'Umbrellere di Cicognolo. Bene, abbiamo prima sentito parlare di vino, di formaggi, e ora andiamo anche a una cooperativa agricola, Iris Bio a Calvatone, provincia sempre di Cremona, dal presidente Maurizio Gritta. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Che cosa producete, Gritta? Ma noi produciamo prima di tutto col metodo biologico e produciamo grani per la pasta, ma produciamo anche altro, perché la nostra è un'azienda agricola biologica di certe dimensioni. E poi diversi anni fa abbiamo deciso per la prima volta, credo, una cooperativa agricola, un agricoltore, l'agricoltura che rileva un'industria e la trasforma in un'industria 100% biologica, chiudendo la filiera dei grani, quindi controllando la materia prima e producendo ben 167 tipi di specialità di pasta biologica. 167, straordinario questo, quindi un catalogo enorme. Un catalogo enorme, sì, dove si è andata a recuperare anche la qualità del nostro territorio, e per territorio non intendo solo quello cremonese, ma quello italiano, quindi favorendo le coltivazioni dei piccoli contadini delle zone disagiate, recuperando prodotti come il farro, come grani particolari come il nostro marzotto, come il cappelli, e di questi traendone dei prodotti di alta qualità, oltre che biologica, anche di alta qualità organolettica e manufatturiera. Senta, dove si può comprare la vostra pasta? E la nostra pasta è un'altra sfida che ci siamo giocati. Noi siamo una cooperativa che nasce da un gruppo di giovani nel 78 e quindi non siamo i biologici dell'ultima ora, ma siamo nati e ci siamo fondati per lavorare nel rispetto dell'ambiente, e ci siamo anche un pochino inventati, tra virgolette, un modo di commercializzare nuovo. Noi soprattutto lavoriamo con i gruppi d'acquisto solidali per quanto riguarda l'Italia. Sì, i gas. Però, mi scusi Gritta, se uno viene direttamente da voi a Calvatone può comprare la pasta? Assolutamente sì, ma anche nelle botteghe solidali, ma anche in negozi, cioè si trova un po' dappertutto. Diciamo che noi appoggiamo di sicuro quello che è lo sviluppo del rapporto col mercato diretto, ma però siamo anche un'azienda che esporta in parecchi paesi del mondo, e proprio quest'anno la pasta Iris ha vinto l'Award come miglior prodotto italiano in Inghilterra, per dire. Bene, grazie a Maurizio Gritta, lo ripeto, cooperativa agricola Iris a Calvatone, provincia di Cremona. Chiudiamo questo viaggio a Piadena, Vo di Piadena. Piadena, notissimo sicuramente per il famoso Duo di Piadena, chi non conosceva questo Duo di Piadena, quindi diciamo che c'è una notorietà. Andiamo alla trattoria dell'Alba. Buongiorno Omar Bertoletti. Buongiorno a lei, buongiorno. Bertoletti, mi dica il menù che state facendo in questo momento. Ah, in questo momento è il menù praticamente sempre della zona, i piatti tipici di questa zona. Noi siamo, a me piace definire la nostra trattoria proprio trattoria un po' di confine, perché Piadena è un crocevia di quattro province, cucina più che altro mantovana, e qui si pesca un po' nei vari piatti. In queste d'estate fa caldo, le ricette tipiche, una su tutte ad esempio il pollo in agresto, che è una ricetta del 500 qui del Platino, del Bartolomeo Sacchi, di Onesta Voluttate, piatto molto fresco, un pollo lessato con le verdure, disossato, poi rimesso in casseruola a fuoco lentissimo a insaporirsi con frutta acerba, menta, prezzemolo, leggero zafferano, abbinato a verdure fresche saltate in padella e a mostarde sempre fatte in casa, e qui c'è la tradizione appunto di preparare le cose noi, e questo è un po' il piatto per eccellenza. Ecco, ma c'è un piatto innovatore che voi avete fatto, oppure mantenete strettamente questo vostro rigore? Ma sì, diciamo che i piatti innovazione, il piatto innovatore è sempre però basato sulla tradizione. Sì. Si variano alcune ricette, al posto di fare il classico tortello solo di erbette e di ricotta, come si usa, si usano prodotti proprio della zona, ad esempio usando il papavero, usando le margherite, usando il radicchio di campo, il tarassaco, e si cerca di dare una novità sulla tradizione, perché la trattoria lavora da sempre, di famiglia da sempre, e lavora proprio con i piatti di tradizione. E poi si riscoprono, e questo mi fa molto piacere, le cose povere di una volta. Adesso stiamo proponendo ad esempio un'eccezionale mortadella di un'azienda agricola locale, dove sono ritornati i giovani ad allevare i maiali a 300 kg e fanno questa mortadella naturalissima, senza conservanti, con l'aggiunta ancora del minestrone di verdure. Sembra una banalità, ma è una delle cose più buone che stiamo servendo in questo periodo. Ci dà il nome di questo prodotto? Si chiama Azienda Agricola Bettella, a Gabbioneta di Ostiano. Ecco, io volevo fare un discorso finale, siamo arrivati proprio in fondo a questo viaggio. Un tema che abbiamo toccato poco, però l'abbiamo toccato appena con il caffè La Crepa. Devo dire che in questo viaggio lungo l'Oglio, in queste trattorie e ristoranti, la cosa straordinaria sono le carte dei vini. Sì, sono le carte dei vini, perché io dico sempre c'è lo spirito di Cantarelli, e anche in quest'area, perché si trovano delle carte dei vini. Innanzitutto la prima pagina delle bollicine è veramente bellissima. Io devo dire che pochi ristoranti a Milano o a Roma o da altre parti hanno questa scelta di champagne e di bollicine anche italiane di queste trattorie e ristoranti. E poi c'è sempre questo, così, questa, come posso dire, questo vezzo verso anche i grandi vini francesi. Assolutamente. assolutamente. Ecco, volevo chiederle questo, una domanda gli faccio, appunto sì. Queste grandi carte vini, quindi avete clienti che bevono? Assolutamente, sì, purtroppo adesso Paolini un po' di meno, sa com'è questi controlli. Con l'etilometro, insomma. È un disastro, però comunque i grandi appassionati ci sono ancora. E qui noi abbiamo avuto un gioco forza a Cantarelli Docet del fatto che nella nostra provincia, nel nostro territorio, a parte il Lambrusco Mantovano, i grandi non ci sono, è vero, sono ha ragione. Allora bisogna per forza darsi da fare. Bene, ha ragione, grazie a Omar Bertoletti della Trattoria dell'Alba. Bene, abbiamo chiuso questo bellissimo viaggio sul fiume Oglio e io vi do appuntamento domani alle 11:15 con il Riposo del Guerriero, quindi vi auguro una buona settimana e sicuramente una buona vacanza da Davide Paolini.